Ah, stiamo smontando un pezzo. Potremmo fare... Onestamente non rende quasi più niente, ma sai, ti distinto, servi e padroni, sta diventando ladroni. Si distinguono, si etizzano. Dov'è il portafoglio? Qui al supermercato, dai grande avvocato. Dov'è il portafoglio? Apro il cancello, sparite le mie. Ladri, distrago il barista, gira la testa, che cucchiai. Ladri, ladri, ci cercano. Ladri, ci seguono. Ladri, dei nostri risparmi. Ladri, ci cercano. Ladri, ci seguono. Ladri, dei nostri risparmi. Sparisce la radio, ladri, distraggo il barista, gira la testa, e cocchini, ladri, ladri ci cercano, ladri ci seguono, ladri dei nostri risparmi, ladri ci seguono, ladri ci cercano, ladri dei nostri risparmi.